È venerdì 9 marzo, i titoli, il Sole 24 Ore, Atene passa il test, via ai nuovi bond. Mentre la vicenda dell'ostaggio italiano ucciso durante un blitz fallito delle forze inglesi in Nigeria è l'apertura per molti giornali, uccisi due ostaggi per la verità, sia quello italiano sia quello inglese. Così è morto l'ostaggio italiano per il Corriere della Sera, per Repubblica, Nigeria ucciso ostaggio italiano, Stampa, Nigeria ucciso ostaggio italiano, identico titolo. Libero, italiano ucciso all'insaputa di Monti. Il Messaggero, ucciso ostaggio italiano. Mentre il Fatto Quotidiano apre sull'inchiesta di Via D'Amelio, gli sviluppi di ieri di cui abbiamo parlato, Borsellino tradito da un carabiniere. Il Giornale, avviso ai furbetti, Alfano chiede chiarezza a Monti e il PDL si prepara alla sfiducia a Riccardi. Prima di tutto la Costituzione, questo è il titolo dell'Unità sulla manifestazione della FIOM. E su questo apre anche il manifesto, il titolo è Metalli preziosi sulla manifestazione della FIOM oggi. Io però voglio iniziare dalle notizie dalla casta, dal mondo della casta. Bene sì, ci abbiamo preso un po' gusto. Vabbè, ieri io non ho visto Piazza Pulita, non ho visto neanche Sant'Onofrio, non ho visto la TV proprio. Però è andato in onda questo servizio su Piazza Pulita in cui... l'onorevole Barbato dell'Italia dei Valori ormai fa così, si arma di telecamera nascosta e poi documenta tutto e denuncia tutto per le trasmissioni televisive. Con una telecamera nascosta ha svelato l'ultimo dei privilegi dei parlamentari. Volete un prestito alla filiale bancaria della BNL di Palazzo Madama, dunque del Senato? Se sei un senatore lo otterrai con un interesse dell'1,57%. Ah, che straordinaria cosa, no? È la migliore convenzione d'Italia, il top del top, leggo dalla Stampa, pagina 11. Mi dice Cortese, il direttore dell'ufficio della Banca Nazionale del Lavoro all'interno del Senato, per un mutuo, per l'acquisto di una casa, il tasso variabile è all'1,57%. Una vera e propria pacchia. Commenta il deputato dell'Italia dei Valori Francesco Barbato, prestatosi per documentare con una telecamera nascosta i privilegi di cui godono i politici. Trattamento fantastico. Allora va lì, nella filiale di Palazzo Madama, chiede informazioni sul mutuo per l'acquisto e scopre che il magico tasso dell'1,57% non può essere fruito solo dai senatori, ma anche da terze persone, purché il senatore funga da garante, ossia cointestatario del mutuo. Dunque, per senatori o amici per i quali un senatore si presti come garante. Il confronto con i tassi normali è impietoso. Se a rivolgersi allo sportello ci va una persona qualunque, ancorché solvibile, in grado di offrire garanzie, può aggiudicarsi un mutuo BNL al 4,07%. Se il mutuo è del senatore, appunto, 1,57%. La rata mensile, invece di essere di 1.046 euro al mese, diventa per il senatore di soli 818 euro. E ora andate al lavoro, tranquilli e sereni, cari ascoltatori. No, prima vi voglio leggere l'anticipazione di un libro di Mario Giordano. Mario Giordano è uscito con un nuovo libro, oggi Libero ne anticipa. Il titolo è Spudorati. Il titolo del libro è Libero, ne anticipa oggi una parte dedicata alle province, le nostre amate province. Il capitolo è così. In prima pagina, le province servono a regalare soldi, questo è il titolo. Avanti, c'è posto, scrive Mario Giordano. Dal 1970, da quando sono state create le regioni, si dice che le province non hanno più senso, eppure non c'è paesello, rione, quartiere che non sogni di diventare capoluogo. Vi chiederete come mai e la risposta è semplice. Non è vero che le province non servono a niente. Le province servono un sacco, a cosa? Semplice. A finanziare la sagra del salmone del Medio Campidano, per esempio, o il censimento per lo studio delle abitudini del cormorano dell'Iglesias. Vorrete mica perdere di vista il cormorano dell'Iglesias, per dirci. E allora perché vi stupite? La provincia di Oristano, con meno di 300.000 abitanti, è riuscita a finanziare in un solo anno la sagra della fragola, con 8.900 euro, la sagra dei pesci, 2.200, la sagra dei muggini, 1.400, la sagra dei soscasisones, scusatemi, cari amici di Oristano, per la pronuncia. La sagra de sos culurzones de patata. E scusate ancora la pronuncia, ma insomma, la sagra del riso, degli agrumi, del pomodoro, dei ravioli, del pane, dei prodotti tipici, la sagra del carciofo, la sagra del pane, l'olio in frantoio. Ma la provincia di Napoli negli ultimi mesi ha sostenuto con 3 milioni di euro una miriade di fondamentali iniziative, la cucina di mamma. Cogli l'attimo, c'è di più per te. Questi sono titoli delle iniziative. Sognando di diventare campioni tirando la fune. Allora, alle 7:34 minuti e due giorni che la politica è entrata prepotentemente a conquistare il centro della ribalta mediatica dei giornali, e anche oggi noi ce ne occuperemo dopo che il ministro Riccardi, ministro per la cooperazione, in una conversazione privata, ma avvenuta vicino a giornalisti, e dunque i giornalisti hanno captato le parole, le ammesse, le hanno ribattute con le agenzie. Il ministro appunto per l'integrazione Riccardi aveva detto due giorni fa sul vertice fatto saltare da Alfano con Monti: è la politica vecchia che mi fa schifo, che mi ha schifato. Allora, su questa parola, è la politica che mi fa schifo, 46 senatori del PDL chiedono le dimissioni, c'è cioè una mozione di sfiducia, un documento che peraltro ha spaccato all'interno dello stesso partito, non tutti sono d'accordo di questa linea molto dura all'interno del Popolo della Libertà. Noi avremo ospite l'ex ministro della giustizia Nitto Palma, che è il primo firmatario di questa lettera alle 8:30. Lettera di 46 senatori PDL, ci insulta, pronti a sfiduciarlo. Cosa ha detto Nitto Palma? Chi è questo Riccardi che si permette di dire che io come componente della politica faccio schifo? Allora, se la politica gli fa schifo, prendesse atto che lui sta al governo grazie ai voti della politica e se ne andasse via. Questa è la linea dei falchi, si può dire, all'interno del PDL. Ieri Riccardi è andato a un convegno, ha fatto qualche parola di circostanza. C'è da dire che Alessandra Arachi sul Corriere della Sera, pagina 8, racconta in un retroscena, insomma, qualche sfogo dello stesso Riccardi, che dice: ma no, io non ho detto che Alfano mi fa schifo, che sono schifato da Alfano, non lo penso, non l'ho detto, ho sempre avuto rispetto per i partiti. Possibile, stavo facendo due chiacchiere private tra colleghi dopo una giornata difficile, sono state captate ed estrapolate alcune battute, le più colorite delle quali mi sono subito scusato, il contesto era più ampio, stavo raccontando le difficoltà a volte di misurarmi con le logiche legittime delle dinamiche tra le forze politiche, e il dato di fatto che il pasticcio è fatto, e quindi 46 senatori chiedono la sfiducia. E Monti, che è dovuto intervenire, ieri era in missione credo a Belgrado, dicendo il timore è che si allarghi lo spread tra i partiti, no? Queste sono sempre frasi montiane, no? Visto che lo spread va di moda, non si allarghi lo spread nella maggioranza, non si allarghi lo spread tra i partiti. Dicevamo, per esempio, l'onorevole Osvaldo Napoli del PDL fa un'intervista al Messaggero a Mario Aiello e definisce un'iniziativa improvvida, un vero autogol, un erroraccio, un'iniziativa inutile, dannosa e autolesionista. Che cosa? Quella dei suoi colleghi di partito che chiedono su questo le dimissioni di Riccardi. Mi riferisco alla reazione dei colleghi al Senato, dice l'onorevole Napoli. Riccardi aveva chiesto scusa, il mea culpa di solito non si usa in politica, quindi la polemica sarebbe potuta finire lì. Invece questa specie di mozione di sfiducia, che mozione di sfiducia poi non si è rivelata essere, ha aumentato la confusione. Sta di fatto che ci sono due linee. Per esempio, guardate il giornale è durissimo, no? E lo fa in maniera quasi come ripicca, come vendetta. Il giornale lo scrive, avviso ai furbetti: il PDL prepara la sfiducia a Riccardi, il ministro schifato dalla politica, così impara. Ecco, questa è la linea del giornale, così impara. E c'è anche un articolo di Paolo Guzzanti che si esercita a pagina 1 e poi continua a pagina 3, il titolo è «I cattolici democratici sono permalosi e vendicativi», si esercita in tutto un articolo di antropologia del cattolico di sinistra. I cattolici di sinistra appartengono a una specie a parte, inizia così Guzzanti, non che costituiscano una razza, ci mancherebbe, ma delineano forse un'antropologia, hanno cioè qualcosa che li distingue, che cosa? Una certa viperesca cattiveria. A chi penso, per esempio, a Romano Prodi, certamente, che malgrado l'aria paciosa da mortadella è cattivissimo e se la lega al dito. Ma non solo, e secondo Paolo Guzzanti, Riccardi è soltanto l'ultimo esempio, appunto, di questi esponenti dell'antropologia dei credenti di sinistra, cattivi e con poco senso dell'umorismo. Invece Michele Serra dedica la maca a questo, a pagina 38 di Repubblica. Naturalmente il ministro Riccardi, scrive Serra, deve rimangiarsi la frase su quanto è schifosa la politica quando è giochino di bottega, ricatto, sotterfugio ipocrita per non svelare i propri veri scopi, ma quel giudizio, per quanto ruvido, esprime un sentimento diffuso, ahimè ampiamente giustificato da quello che la politica dei partiti è stata negli ultimi anni. Che un giudizio del genere non provenga da un qualunquista da bar, da un grillino di passaggio, ma dal ministro di un governo che di politica, giusto o sbagliata che sia, ne fa tonnellate, nonché da una persona impegnata nel sociale come 10 leader di partito messi insieme, è cosa che non può non mandare in bestia i mandarini del PDL, che vedono il proprio potere usurpato dal governo tecnico, il proprio patrimonio di voti scemare di giorno in giorno. La novità che rende affascinante, incerto, inedito il panorama politico è questa. Fuori dai partiti non c'è solo l'antipolitica, fuori dai partiti c'è anche molta politica, in questo momento addirittura c'è il governo. I partiti cominciano a capirlo e per questo diventano ogni giorno più nervosi, nel caso del PDL più aggressivi. Sta di fatto che insomma questo vertice è saltato, perché Alfano ha detto non andiamo certo lì a parlare di giustizia e Rai, ha lasciato molti strascichi. Oggi Bersani, leader del PD, fa un'intervista a Repubblica. Tra l'altro, intervistato da Paolo Griseri, dice: non mi è piaciuta la battuta di Monti sullo spread dei partiti. Non esistono i partiti, non siamo tutti uguali. Ogni forza politica ha una sua faccia. Noi abbiamo la nostra, che non è quella di chi vuole stralciare le norme sulla corruzione o regalare le frequenze e far saltare i vertici a Palazzo Chigi. Bersani, che poi parla molto di Rai, una Rai che va riformata, dice un'azienda al 99% pubblica che rischia di andarsi a schiantare, vogliamo faccia la fine di Alitalia, non vogliamo fare che cosa? Noi vogliamo una radicale trasformazione del sistema di governance, proponiamo che i partiti stiano fuori dalla Rai. E questo è il tema che fa, diciamo, discutere molto e che ha fatto anche saltare il vertice, la riforma della RAI, che per il PDL non è un tema in agenda di un governo tecnico che è stato chiamato per risolvere le situazioni soprattutto economiche. In ogni caso ne parleremo alle 8.30. La politica poi si anima, non ho visto come non ho visto Piazza Pulita, non ho visto neanche Santoro ieri, ma si anima per questa intervista che Santoro ha mandato in onda, servizio pubblico, e che oggi il Fatto Quotidiano ripropone, fatta da Luca Bertazzoni a chi? All'ex tesoriere della Margherita Lusi, e che ha detto delle cose molto molto chiare: se parlo io succede un casino. E poi erano tutti d'accordo. Questi sono i due concetti ribaditi nell'intervista che trovate tutta a pagina 10. Questa partita è molto più grande, fa saltare il centro-sinistra, e quando su di me uscirà fuori ulteriore merda che servirà a screditarmi definitivamente, vedrà che non ci sarà più una domanda da porsi. Insomma, Lusi in tutta questa intervista, rispondendo alle domande, dice: io eseguivo ciò che mi veniva detto di fare, evidentemente per loro, cioè per il partito, ero affidabile, mi creda, non c'è niente che non si sappia, chi doveva sapere, sapeva, è un reato costituire una società, per esempio? Insomma, la linea di Lusi, che poi sulle domande sui 13 milioni di euro incamerati ovviamente dice risponderò ai magistrati, eccetera, è che sapevano tutti, vertice del partito, quindi anche della Margherita, quindi anche Rutelli, diciamo, per deduzione. E, tra l'altro, su questa vicenda ci sono delle novità. Fiorenza Sarzanini oggi sul Corriere della Sera racconta, pagina 21, che l'inchiesta va avanti. È stato preso un tesoretto, scovato un tesoretto da 7 milioni di euro appunto a Lusi, sigilli a 6 case, indagata anche la moglie, I PM dicono assegni usati per operazioni predatorie. Altre case, 7 milioni di euro. In totale sono oltre 20 i milioni di euro che il tesoriere della Margherita avrebbe prelevato a fini personali dai conti del partito. E non è finita. Il sospetto è che ne abbia occultati almeno 25, denaro utilizzato per comprare e ristrutturare immobili, trasferito in Canada attraverso la società TTT SRL e Immobiliare Paradiso. Sotto sequestro sono finite una villa, 5 appartamenti, 2 milioni di euro, un tesoro da favola. Finora Luigi Lusi era accusato solo di appropriazione indebita, ma ora vengono coinvolte anche la moglie, Giovanna Petricone, il cognato, la nipote, che con lui sono accusati di ricettazione e violazione della normativa antiriciclaggio. La consorte aveva depositato sul proprio conto 1.700.000 euro, li aveva poi trasferiti in Canada. La nipote Nicole D'Andrea si è invece intestata fittiziamente la nuda proprietà di una villa ad Ariccia che Lusi aveva sempre negato di aver acquistato, della quale aveva invece ottenuto l'usufrutto pagandolo coi soldi del partito. Insomma, si allarga il tesoro che la procura dice è stato trovato a Lusi. Mentre l'altra bufera giudiziaria che continua è quella che riguarda il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Boni, della Lega. Ieri ha visto Bossi, per ora la Lega lo difende a spada tratta. Il tribunale leghista assolve Boni, così titola pagina 6 Libero. Mentre vi segnalo su Repubblica la testimonianza di un architetto scaricato, è a pagina 15, intervistato da Piero Colaprico, un architetto di Cassano d'Adda, si chiama Angelo Lonati, 57 anni, capelli lunghi e jeans, che in pratica, dice l'accusa, era stato scaricato perché non era, secondo appunto i magistrati, favorevole a fare, diciamo, i favori o a pagare le tangenti che avrebbero pagato invece gli altri. Ecco. Questa è la situazione politica, il traffico. Molti giornali italiani aprono comprensibilmente sulla vicenda dei due ostaggi, uno dei quali appunto italiano, che erano stati rapiti in Nigeria il 12 maggio del 2011 e di cui non si sapeva nulla. Questa è una colpa anche di noi, dei mezzi dell'informazione, non si sapeva davvero nulla. Adesso si sa molto e non abbastanza ancora, per esempio, di Rossella Urru, ma ci sono altre persone italiane, connazionali, che sono detenuti, prigionieri, ostaggi in varie parti del mondo. Ebbene, si è scoperto nel modo più tragico l'esistenza di Franco La Molinara, ostaggio italiano rapito lo scorso maggio appunto da un gruppo che si rifà al terrorismo di matrice islamica in Nigeria e che è stato ucciso, e ha creato questo scompiglio e rapporti a dir poco tesi tra il premier Cameron in Gran Bretagna, perché sono loro ad aver fatto il blitz, perché gli ostaggi erano due, un italiano e un inglese, sono stati entrambi uccisi in una dinamica ovviamente poco chiara. Il premier Cameron, parlando con Monti, che si è detto molto molto arrabbiato per il fatto di non essere stato avvisato, oggi leggete su Repubblica, Goffredo De Marchis, a pagina 3, l'ira del premier Monti contro Londra, è stato sbagliato non avvisarci prima. E Cameron dice non potevamo far nulla, ormai erano spacciati, era l'unica finestra in cui potevamo intervenire, ormai avevano giurato li avrebbero uccisi comunque. Sta di fatto, insomma, che questo dai giornali viene anche definito come un altro schiaffo dopo la vicenda dei Marò, per esempio dal Quotidiano Nazionale. Certo, vicende ben diverse, ma insomma un altro esempio di come l'Italia sia stata in questo caso bypassata e sia stata considerata un paese evidentemente neanche da informare di un blitz del genere. E trovate tanto riguardo alla cronaca, ovviamente ancora tutta da chiarire, di quello che è successo in Nigeria. Come sulla vicenda dei Marò, io tra l'altro su Twitter, sotto la dicitura hashtag, si chiama così, Marò che guaio, pongo questa domanda da giorni e nessuno ha chiarito mai fino in fondo: ma chi diavolo ha consegnato questi due militari all'India quando è successa questa vicenda? Ebbene, oggi per la prima volta finalmente dobbiamo dire grazie a Fausto Biloslavo del Giornale e a Patrizia Albanese Maglio di Salvo del Secolo XIX, perché fanno degli articoli proprio su questo. Fausto Biloslavo sembra il più informato. Ecco cosa accadde quel giorno. Grazie alle testimonianze di alcuni addetti ai lavori, il giornale ha ricostruito minuto per minuto gli avvenimenti del 15 febbraio. leggetevi pagina 15 del giornale, ve la leggo io adesso, perché guardate, non è una barzelletta, eh? Se è andata così sembra una barzelletta, ma invece è la triste realtà. 15 febbraio, ci sono degli spari, ci sono due pescatori indiani che rimangono uccisi, un presunto attacco dei pirati alla petroliera Enrica Alexie, si sparano i colpi di avvertimento in acqua, a terra la guardia costiera indiana viene informata che due pescatori sono stati uccisi. Che succede in quel momento? Udite, udite. Il comandante della guardia costiera dell'India occidentale, Basra, si inventa una tattica ingegnosa, come lui stesso ammetterà qualche giorno dopo, ovvero lancia un'esca sperando che qualcuno finisca in trappola. Eravamo nel buio più completo riguardo a chi avesse sparato. Allora abbiamo localizzato quattro navi nel raggio tra i 40 e i 60 miglia nautiche dal luogo dell'incidente. Chiediamo, gli indiani chiedono via radio, qualcuno per caso di queste quattro navi ha respinto un attacco dei pirati? Indovinate gli unici a rispondere chi sono stati? Gli italiani. Gli italiani rispondono sì, noi abbiamo fatto fuoco. Le altre tre navi, ovviamente, tutti zitti, continuano la loro navigazione. Gli italiani, sì, noi abbiamo fatto fuoco, ma in acqua. Venite in porto perché abbiamo catturato i pirati e dovete riconoscerli. Trappolone. Va bene, arriviamo subito, come no? Eccoci, siamo a disposizione. Arrivano, scendono i marò e dicono, ecco, dove sono da riconoscere i pirati? Siete in arresto. Ecco, questo praticamente la dinamica è andata. È una situazione molto difficile, ma viene da strappare un sorriso amaro per quella che appare una barzelletta. Cioè sembra c'erano quattro navi, una greca, una turca, una filippina, una italiana. Chi ha risposto? L'italiana. Va bene, insomma. Il secolo XIX invece, con Patrizia Albanese, Maglio di Salva, pagina 5, accusa direttamente l'armatore di avere subito una minaccia e neanche troppo velata, o per dirla tutta un ricatto economico. Due giorni di telefonate tra le autorità indiane e il comandante dell'Enrica Alexie, la petroliera civile, che alla fine si è concluso con un out-out indiano. Se i due marò non sbarcano, la petroliera non avrà più alcun rapporto economico con l'India. Stop agli affari. E dunque ci sarebbe anche un ricatto economico sul fatto di tornare. Sta di fatto che noi ne parleremo con Giuliana Sgrena alle 8:20. Giuliana Sgrena, inviata del Manifesto. Oggi il Manifesto in prima pagina: insulti a Giuliana, marò, che minacce. Sulle nostre pagine Facebook e Twitter arrivano insulti irripetibili contro Giuliana Sgrena, scrive il Manifesto in prima pagina. Per il tono e la fraseologia è un incitamento all'aggressione fisica. Giuliana è colpevole di aver scritto il 22 febbraio un punto di vista diverso da quello corrente sulla vicenda dei marò. Ha scritto infatti la Sgrena: ci consideriamo i più forti e pronti a far valere l'obsoleta consuetudine dello zaino e della bandiera e considerare danno collaterale la morte di due pescatori indiani disarmati. Questa storia ci riguarda e adesso insultateci tutti, così il Manifesto. Io ho un minuto, voglio segnalare solo un articolo che mi ha incuriosito molto nel giorno in cui si parla molto di Borsellino, la mafia, eccetera. Trovate tanti dettagli, le cronache, purtroppo non c'è tempo, ma oggi c'è il verdetto definitivo in Cassazione per il senatore Marcello Dell'Utri, che rischia il carcere. E Francesco Bonazzi sul Secolo XIX, sul Secolo XIX, a pagina 8, lancia un giallo. Vi voglio lasciare così. Noi del Secolo cerchiamo ieri il senatore per un commento, ma il suono è strano, il telefonino sembra quello di una teleselezione intercontinentale. Scatta la segreteria in spagnolo. Stai a vedere che ha dimenticato il telefonino a Santo Domingo, oppure si è concesso una vacanzina all'estero proprio nel giorno in cui la Cassazione potrebbe decidere la condanna definitiva, già confermata in appello per concorso esterno in associazione mafiosa, e per questo il senatore Dell'Utri potrebbe andare in carcere? Dov'è il senatore Dell'Utri?